Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Quella benedetta visita ai genitori impensieriva ancora Duroy. Già più di una volta aveva messo sull'avviso la moglie. L'aveva preparata, ammonita. Gli parve opportuno riattaccar da capo. «Sai, son contadini, ma di quelli veri, non da opera comica». «Lo so», rispose lei, «me l'hai già detto non so quante volte. Su, alzati e lascia che mi alzi anch'io». Partirono un'ora dopo, giacché dovevano pranzare dai vecchi, avvertiti da qualche giorno. Li trasportò una carrozza scoperta e cigolante, rumorosa come un sacco di pentole. Seguirono un lungo viale piuttosto bruttino, poi attraversarono dei prati percorsi da un fiume. Infine cominciarono a salir la pendice. Madeleine, stanca, s'era assopita sotto la carezza penetrante del sole che la scaldava deliziosamente in fondo al vecchio legno, come se fosse coricata in un tiepido bagno di luce e d'aria campestre. Il marito la svegliò. «Guarda», disse. S'erano fermati a due terzi della salita, posto famoso per il panorama e sosta obbligata ad ogni viaggiatore. Vi si dominava l'immensa vallata, lunga e vasta, che il fiume limpido percorreva da un capo all'altro con maestoso ondeggiare. Lo si vedeva giungere di laggiù, con tante isolette che parevano macchie, e descrivere una curva prima d'attraversare Rouen. Poi, sulla riva destra, appariva la città, semisommersa nella foschia del mattino, con qualche sprazzo di sole sui tetti, coi suoi mille campanili, ora agili e aguzzi, ora tozzi, fragili alcuni e lavorati come giganteschi gioielli, coi suoi torrioni quadrati o rotondi, cinti di corone gentilizie, le sue torri campanarie, le sue cuspidi, tutta la gotica moltitudine dei pinnacoli delle chiese, dominati dalla freccia acuta della cattedrale, bizzarra guglia di bronzo, brutta, strana e spropositata, la più alta del mondo. Il vetturino aspettava che i viaggiatori fossero sazi di starsene lì a bocca aperta. Sapeva per esperienza quanto poteva durare in ogni singola specie di visitatori l'ammirazione. S'era appena mosso quando Duroy scorse, a poche centinaia di metri, due vecchietti che se ne stavan venendo pian piano. Saltò giù di carrozza gridando «Eccoli, son loro!» Erano due contadini, un uomo con la sua donna, che camminavano a passi irregolari, dondolandosi e urtandosi di quando in quando con la spalla. Lui era basso, tarchiato, rubizzo e con un poco di pancia, vigoroso nonostante l'età. Lei lunga e asciutta, con la schiena piegata, triste. Era la tipica sgobbona di campagna, una poveretta che aveva sfacchinato nei campi fin dall'infanzia senza saper cosa fosse il sorriso, mentre il marito se la spassava a spararle grosse, seduto a bere con gli avventori. Anche Madeleine era scesa di carrozza e le si strinse il cuore. Le venne una malinconia inaspettata, osservando le due misere creature che, ormai vicine, non avevano ancora riconosciuto in quel distinto signore il loro ragazzo e che certamente a tutto pensavano fuorché ad essere i suoceri della bella signora vestita di chiaro. Se ne andavano, silenziosi e in fretta, incontro al figliolo che doveva arrivare, e non degnarono nemmeno d'un'occhiata quella coppia cittadina seguita da una carrozza. Tiravano dritto. George, ridendo, gridò «Ciao, pa!» Si fermarono di botto, tutti e due, stupefatti, intontiti dalla sorpresa. La vecchia fu la prima a riaversi e balbettò senza però avanzare d'un passo «Tetti il me fiol!» Il nostro giovanotto rispose «E come no, son proprio mima!» E Duroy, avvicinatosi a lei, la baciò su tutte e due le gote, due bei bacioni filiali. George disse «Ecco mia moglie!» e i due campagnoli guardarono Madeleine. La guardarono come si guarda una bestia rara, con un timor guardingo, unito a una sorta di soddisfatta approvazione nel padre, d'ostica gelosia nella madre. Fu un lungo pranzo contadinesco, con piatti scombinati, un coteghino dopo il cosciotto di castrato, una frittata dopo il coteghino. Babbo Duroy, reso allegro dal sidro e da qualche bicchier di vino, aveva dato la stura alle sue spiritosaggini più fini, quelle riservate alle grandi occasioni, storielle grassocce e sporche di cui erano stati protagonisti, diceva, amici suoi. George, pur sapendole ormai a memoria, le riascoltava ridendo, inebriato dall'aria natia, ripreso dal suo naturale amore per il paese, per i luoghi familiari alla sua infanzia, da tutte le sensazioni, da tutti i ricordi ritrovati, da tutte le cose d'un tempo ricadutegli sotto gli occhi, inezie, il segno lasciato da un coltello sull'uscio, una seggiola zoppa legata a un certo fatterello, l'odore di terriccio, il vasto respiro di resine e di alberi proveniente dalla vicina foresta, il sentore delle stanze, del fosso, del letame. Mamma Duroy se ne stava zitta zitta, sempre triste e imbronciata, spiando con la coda dell'occhio la nuora, mentre un odio le si risvegliava nel cuore, l'odio della vecchia sfacchinatrice, della vecchia zoticona con le mani rovinate e tutte le membra deformate dalle pesanti fatiche, contro quella donna di città che le ispirava la repulsione d'un essere maledetto, d'una reproba, d'una femmina impura, fatta per l'ozio e il peccato. Si alzava ogni momento per andare a prendere i piatti, per versare nei bicchieri la bevanda gialla e aspra dalla caraffa, o il sidro rosso, frizzante e scirupposo, dalle bottiglie col tappo che saltava via come quello delle gazzose. Madeleine mangiava poco o nulla, parlava appena, standosene lì malinconica, col suo solito sorriso incollato sulle labbra, un sorriso mesto, rassegnato. Era delusa, accorata. Perché? Era stata lei a voler venire, ben sapendo che era una casa di contadini, di poveri contadini. Come li aveva sognati, lei che di solito non sognava mai. Le veniva in mente sua madre, della quale non parlava mai a nessuno, una maestrina sedotta, cresciuta a Saint-Denis e morta di miseria e di dolore quando Madeleine aveva 12 anni. Uno sconosciuto aveva affidato ad altri l'educazione della figlioletta. Suo padre, senza dubbio. Ma chi era suo padre? Non lo aveva mai saputo di preciso, nonostante certi vaghi sospetti. Il pasto della sera, al lume d'una candela, per Madeleine fu ancora più penoso di quello del mattino. Babbo Duroy, mezzo sborniato, non parlava più. La madre serbava il suo brusco cipiglio. Finito di cenare, Madeleine trascinò fuori il marito per non restare in quel locale buio dove stagnava il puzzo acre delle pipe e delle bevande rovesciate. Quando furono usciti, «Vedi che sei già annoiata?» fece lui. Lei tentò di protestare. La interruppe. «No, me ne sono accorto benissimo. Se ti farà piacere, ripartiremo domani». «Sì, sarà meglio», mormorò lei. Camminavano ad agio, senza meta. Era una notte tiepida e l'ombra carezzevole e profonda pareva colma di lievi rumori, di fruscii, di sospiri. Avevano imboccato un angusto sentiero sotto alberi altissimi, fra due boschi cedui dove il buio era impenetrabile. «Dove siamo?» domandò lei. Lui rispose, «Nella foresta. È grande? Grandissima. Una delle più grandi di Francia. Un sentore di terriccio, d'alberi, di borraccina, quell'odore fresco e antico delle folte boscaglie, formato dalla linfa dei germogli e dall'erba morta e ammarcita dei forteti, pareva dormir da secoli su quel sentiero. Alzando il capo, Madeleine scorgeva qualche stella fra le cime degli alberi, e sebbene nessuna brezza muovesse le fronde, percepiva intorno a sé il vago palpito d'un oceano di foglie. Sentì nell'animo uno strano brivido che le corse poi sulla pelle. Una confusa angoscia le strinse il cuore. Ho quasi paura. Vorrei tornare. Va bene, torniamo. E ripartiremo per Parigi domani? Sì, domani. Domani mattina? Domani mattina, se ti fa piacere. Quando George annunziò ai suoi che stava per andarsene, rimasero tutte e due sorpresi. Poi capirono da che parte veniva tale decisione. Il padre si limitò a domandare: «Te rivedrem presto?» «Ma sì, quest'estate!» «Boh, allora!» La vecchia bofonchiò: «Prego a Madonna che ti ten abbia a pentirtene de che il cafato!» Duroy regalò loro 200 franchi per placarne il malumore. E verso le 10, apparsa la carrozza che un bimbetto era andato a chiamare, gli sposini baciarono i vecchi scorzoni e partirono. Nello scender la costa, Duroy si mise a ridere. «Vedi, te l'avevo detto. Non avrei mai dovuto farti conoscere i signori Duroy de Cantel, padre e madre». I Duroy erano tornati a Parigi da 2 giorni e il nostro giornalista aveva ripreso l'usato lavoro in attesa di lasciare gli echi di cronaca per assumere definitivamente le mansioni di Forestier e darsi anima e corpo alla politica. Felice come una Pasqua, quella sera stava rincasando per la cena nell'appartamento del suo predecessore, e più che mai vivo era in lui il desiderio d'abbracciar presto la moglie, della quale subiva fortemente il fascino fisico e l'inavvertito dominio. Passando davanti a un fioraio, in fondo a Rue Notre-Dame-de-Lorette, pensò di comprare un mazzo di fiori per Madeleine e prese un grosso fascio di rose appena dischiuse, un cartoccio di profumati boccioli. Avendo dimenticato la chiave, suonò e venne ad aprirgli il medesimo domestico di prima, tenuto anche quello per suggerimento della moglie. George domandò: «La signora è tornata?» «Sì, signore». Ma nell'attraversare la sala da pranzo rimase molto sorpreso scorgendo la tavola apparecchiata per 3. E nel salotto attiguo, dato che la portiera era alzata, Madeleine intenta disporre in un vaso del caminetto un fascio di rose identico al suo. Domandò entrando: «Ha invitato qualcuno?» Senza voltarsi e continuando a mettere a posto i fiori: «Sì e no», rispose lei. «È il mio vecchio amico, il conte de Vaudrec, avvezzo a cenar qua ogni lunedì. Verrà come ha sempre fatto in passato». George mormorò: «Ah, benissimo». Era rimasto in piedi alle spalle di lei, col mazzo in mano e con una gran voglia di nasconderlo, di buttarlo via. Peraltro disse: «Tieni, t'ho portato delle rose». Lei si voltò di scatto, tutta sorridente, gridando: «Oh, che pensiero carino il tuo!» E gli tese le braccia e la bocca in uno slancio di gioia così sincero che lui se ne sentì consolato. Una scampanellata annunziò il conte. Entrò tranquillo, molto disinvolto, come se fosse a casa sua. Dopo aver baciato galantemente le dita della giovane signora, si volse verso il marito e gli tese la mano con cordialità, domandando: «Come sta, mio caro Duroy?» Non aveva più l'aspetto sostenuto, contegnoso di prima, ma un'aria affabile che lasciava capire come la situazione fosse ormai cambiata. Il nostro giornalista, sorpreso, cercò d'essere gentile per corrispondere a quei primi approcci. Dopo 5 minuti pareva che si conoscessero e si volessero un bene dell'anima da una decina d'anni. Madeleine, raggiante in viso, disse: «Vi lascio soli, devo dare un'occhiata in cucina». La cena fu deliziosa, tutta intima e cordiale. Appena il conte se ne fu andato, Madeleine disse al marito: «Vero che è un uomo perfetto? Guadagna da così a così a conoscerlo. È un vero amico. Ah, senza di lui...» Non terminò la frase e George rispose: «Sì, lo trovo molto simpatico. Credo che ci intenderemo benissimo». Ma lei riprese subito: «Sai, stasera dobbiamo lavorare prima di coricarci. Non ho avuto il tempo di dirtelo prima di cena perché è venuto Vodrek. M'hanno portato delle grosse notizie questo pomeriggio. Notizie dal Marocco. Me le ha fornite l'onorevole La Roche-Mathieu, il futuro ministro. Dobbiamo fare un articolone sensazionale. Ho i dati e le cifre. Tieni, prendi il lume. Lo prese e passarono nello studio. Madeleine s'appoggiò al caminetto e, accesa una sigaretta, raccontò le notizie, espose le proprie idee e tracciò il piano dell'articolo che aveva in mente. Lui la ascoltava attento, scarabocchiando appunti, e quando ebbe finito sollevò alcune obiezioni. Riprese l'argomento, lo sviluppò e tracciò a sua volta non più il piano d'un articolo, ma il piano d'una campagna contro l'attuale ministero. Quell'attacco non sarebbe stato che il principio. Sua moglie aveva smesso di fumare, sentendo crescere il proprio interesse, vedendo sempre più chiaro e più lontano a mano che seguiva il pensiero di George. «Già, già!» mormorava ogni tanto. «Ottimo! Perfetto! Una cannonata!» E quando anche lui ebbe finito di parlare, «Ora scriviamo!» fece lei. Ma George riusciva ogni volta difficile l'avvio e cercava faticosamente le parole. Allora lei si chinò dolcemente sulla sua spalla e cominciò a suggerirgli le frasi in un orecchio, a bassissima voce. Quando il loro articolo fu finito, George lo rilesse, a voce alta, declamandolo. Lo giudicarono stupendo, di comune accordo, e si sorrisero. Duroy riprese il lume. «E ora a nanna!» disse con uno sguardo acceso. Madeleine rispose. «Prima lei, maestro, che mi illumina il cammino!» Lui le passò avanti e la giovane signora lo seguì in camera, vellicandolo sul collo con la punta d'un dito, fra il solino e i capelli, per farlo camminare più svelto, dato che lui non resisteva a quella carezza. L'articolo apparve a firma di Georges Duroy de Cantel e fece gran scalpore. Impressionò la camera. Zi Walter si congratulò con l'autore e lo nominò redattore politico de La Vie Française. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.